Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte, ben sintonizzate, quella che state ascoltando è la nostra 153esima trasmissione e qui in studio siamo io, che sono Caterina, e con me... Oh, aspetta che non gli ho aperto il microfono, vai, scusa. Lucilla. Ecco, grazie. E la settimana scorsa le compagne che erano di turno qui alla radio, non ricordando la numerazione delle nostre trasmissioni, hanno, come si dice, dato i numeri un po' assolutamente a caso, dicendo che era la trasmissione numero 1000. Noi speriamo sinceramente di arrivarci, quindi lo prendiamo come un buon augurio. In ogni caso, cominciamo facendo i nostri complimenti a Monica, che la volta scorsa ha fatto il suo debutto nell'etere, rompendo finalmente il ghiaccio. Questa è la dimostrazione che ognuna di noi ha sicuramente qualcosa di interessante da proporre e, come diciamo sempre tutte noi, speriamo che sempre più donne possano usufruire di questa opportunità. Monica è entrata nel nostro gruppo già da un po' di tempo e tutte noi, a dire il vero, facevamo il tifo per lei affinché ci regalasse e donasse alle ascoltatrici il suo sapere. Gliene siamo grate e ci auguriamo che l'esperienza si ripeta. Ma anche voi potete farlo, potete inviarci i vostri elaborati da leggere, le notizie, le iniziative di cui siete a conoscenza, i vostri pensieri, le segnalazioni di libri interessanti da sottoporre all'attenzione delle altre, ma anche, perché no, le vostre poesie, le vostre lettere d'amore, i bigliettini che normalmente ci lasciamo o ci scambiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, mandateci un po' quello che volete. Visto che anch'io ho la bocca, per ora Caterina ha fatto la superstar, diciamo che torniamo alla trasmissione di oggi, ha parlato delle altre trasmissioni e l'argomento che abbiamo scelto è praticamente dalla stampa con furore, direi io. E quindi niente, ascolterete dalla stampa con amore, dice Caterina, dalla stampa con furore, dico io. Con amore ironico, chiaramente. Tutto ironico. Abbiamo comunque provato a dare uno sguardo ai giornali anche di ieri e dell'altro ieri, perché sapete, per noi non è importante tanto la notizia che viaggia sull'onda, ma è importante anche quelle che sono lì, sedimentano, ed è bene ritornare a vederle insieme ogni tanto. Esatto. E quindi sentirete un paio di notiziole che abbiamo trovato e che abbiamo cercato di commentare, e ci converrà ridere, ci converrà piangere, ma questo è quello che ci offre la stampa. Tant'è. E infatti, per il momento ascoltiamoci un brano musicale dalla voce di Gabrielle, ascoltate bene anche il mio inglese, Out of Reach. Mm-hmm. questa è Gabrielle. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away. Allora, questa bella canzone la dedichiamo a due amichette che sono Melania e Laura, che spero che siano all'ascolto. Vi mandiamo un saluto e la dedica di questa splendida canzone, appunto. Allora, partiamo con la prima notizia. Questa è una notizia più fresca rispetto a quella che poi curerà la dopo nostra io. Caterina. E dunque, da alcuni ascolti... Scusa un attimo, Luci, scusa. Ho trovato un sottofondo adatto. Esatto, ti ringrazio. Prego. Allora, da alcuni articoli di giornale venuti fuori, insomma, c'è una nuova moda che è quella della plastica alla vagina e alle grandi e piccole labbra. Allora, del resto, se questo passa sui giornali, la nuova moda dell'America, eccetera, eccetera, noi abbiamo trovato un'antropologa che ha curato questa cosa per noi. E il titolo del pezzo della nostra antropologa, tale Angioletta Mancinin, così recita: ringiovanimento vaginale? Oltre le rughe del viso, c'è di più. Per illustrare in modo esauriente l'argomento, occorre in primo luogo affrontare un breve ma significativo excursus del ciclo vitale delle femmine etero della razza umana. A partire dalla pubertà, le giovani femmine di cultura occidentale sono allevate nel rispetto di alcuni rigidi protocolli, utili soprattutto al soddisfacimento del piacere sessuale dei giovani maschi appartenenti alla stessa specie. Primo, essere magre, ovvero indossare a tutti i costi l'agognata taglia 42. 2. Essere curate e piacevoli nell'aspetto fisico. 3. Dedicare cure costanti al proprio corpo. 4. Essere sessualmente disponibili per i desideri sessuali dei maschi. Dai 20 ai 30 anni, le femmine etero della razza umana sono generalmente impegnate per organizzare il costoso e complicato rito denominato matrimonio, nell'allevamento della prole e nell'accudimento del marito, nel lavoro spesso precario, nella gestione e cura dell'abitazione e dell'alimentazione del microgruppo di appartenenza definito famiglia. Dai 30 ai 40 anni d'età, oltre quanto detto sopra, esse sperimentano diete alimentari cicliche e ricorrenti, finalizzate a controllare costantemente il peso corporeo, e questo è il primo. 2. Inserimento di massa in attività che contrastano il decadimento muscolare. 3. Intensa frequenza di uno o più saloni di bellezza. Dai 40 ai 50 anni, quanto descritto si intensifica progressivamente. Le femmine umane etero e non si preparano a contrastare con tutte le loro forze un nuovo evento atteso e temuto, la menopausa. Dai 50 anni in poi, l'ingresso nella piena età menopausale è un dato certo per tutte. Nella maggior parte degli esemplari lascia tracce fisiche e psichiche pressoché indelebili. E andiamo a vedere quali sono queste tracce. 1. Aumento incontrollabile delle già prospere colonie di rughe del viso. Tale impudica manifestazione dell'età cronologica è fra le più odiate e temute dalle ormai attempate femmine della umana specie. Quelle maggiormente coinvolte dai fatali segni del tempo sentono che se non faranno qualcosa per porvi rimedio, ben presto saranno espulse dall'esercizio attivo delle prerogative sessuali, indispensabili al soddisfacimento di certi bisogni propri della specie, perché gli esemplari del sesso maschile ben presto le sostituiranno con esemplari dai visi turgidi e distesi. Due. Tali preoccupazioni condurranno le femmine verso l'aumento delle attività e dei rimedi tesi a contenere gli effetti dell'invecchiamento, ma ben presto si accorgeranno che la dose di trattamenti estetici è ormai insufficiente nel contrastare la dirompente avanzata delle menzionate colonie di rughe facciali, anche quando i trattamenti fossero addirittura quotidiani. Risultato? La femmina etero, di fronte ai palesi insuccessi, dapprima si arrende, cade in depressione, ma poi si mette alla frenetica ricerca di un'alternativa valida. Dopo alcuni secondi di intensa e angosciosa ricerca, fissa un appuntamento con un chirurgo estetico. Appena qualche ora dopo, il chirurgo la riceve nel suo lussuoso studio. Le mostra varie parti del corpo da modificare a colpi di bisturi, quali il contorno occhi, le labbra, il tiraggio bilaterale, la conseguente stiratura dalla mascella agli zigomi, la ristrutturazione, l'innalzamento del seno, il rifacimento del naso, e poi le illustra la primizia rivoluzionaria importata dagli USA, la vaginoplastica e la labioplastica. Successivamente spiega con voce suadente: la vaginoplastica prevede il rassodamento dei muscoli vaginali, mentre la labioplastica riduce le ormai cadenti labbra vaginali. Dunque lei può correggere la sua vecchia fica e riportarla agli antichi splendori di ben 30 anni fa, se poi vuole approfittarne, già che c'è. Le rifaccio anche un'imene nuova di zecca. Vedrà che lavoro. Gioie della modernità, il ringiovanimento vaginale è finalmente realtà e le ormai mature femmine occidentali possono, oltre le odiate rughe facciali, riparare l'imene, rassodare i muscoli vaginali, correggere le labbra della suddetta fica e ricorrere persino alla liposuzione dell'area del pube, e tutto tramite un intervento che comporta un solo giorno di degenza. Ma forse è meglio specificare: le ricche femmine della razza umana occidentale volontariamente si sottopongono al bisturi riparatore, cancellano gli insulti del tempo, pagano salate parcelle senza fiatare, dimostrandosi molto collaborative verso le aspettative dei loro maschi, e si considerano fortunate. Certo, fortunate. C'è chi può straziare persino la loro fica a pagamento, ma le dona un temporaneo ringiovanimento. Per le altre donne non occidentali, invece, non c'è scelta, non c'è progresso. Sono obbligate al burqa e alla mutilazione dei genitali. Le occidentali invece scelgono, e lo fanno con gioia e consapevolezza. In fondo, perché interrogarsi su cosa fare? C'è qualcosa da obiettare? No. Taglia 42, viso liscio, seno trionfante, fica turgida a qualunque età. Abbiamo concluso. Grazie all'antropologa Angioletta Mancinin. Grazie. Dopo questo pezzo sicuramente interessante, perché spiega appunto il comportamento dei gruppi sociali, da una esimissima antropologa, ascoltiamoci un pezzo delle Sapphire, Angry Woman's Blues. Che significa donne? Che significa affamate, donne lo so, affamate, lo conosco benissimo. Affamate di blues. Di blues, allora ascoltiamo. Well, I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. I'm hungry like a dog, like a New York City rat, a school of piranhas or a Venus flytrap. Takes a lot to satisfy me, I'll eat your whole menu. But don't you dare forget, you gotta feed my head too. I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. You really gotta feed my head. Allora, e per chi non lo avesse ancora capito, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Ci è arrivato adesso un messaggio nel quale si diceva che via internet la trasmissione non si sente. Le nostre compagne di là stanno cercando di risistemare, spero che si riattivi al più presto. E questo perché vi ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo chi ci ascolta via internet, anche se speriamo che il canale venga ripristinato al più presto, e vale a dire tutte le donne di Caserta, di Bari, di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e la new entry di Ninapoli, che la trasmissione scorsa ci ha fatto sapere che riusciva ad ascoltarci anche lei. Le ringraziamo per averci dato un segnale della loro presenza, anzi ci farebbe piacere, se ci ascoltate anche da qualche altra città, di farci sapere da dove. Ricordo il numero per gli SMS, che è 338-41-46682. Potete contattarci anche qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 21:30, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma, oppure venirci a trovare. A tal proposito vi ricordo le ragazze prima di entrare qui in trasmissione mi hanno detto che ha chiamato una donna che voleva sapere se oggi ci sarebbe stata la nostra trasmissione perché aveva voglia di venire. Io ricordo a tutte quante che la radio è aperta a chiunque voglia venire, noi siamo qui fino alle 9:30. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Ripeto ancora il numero per gli SMS, che è 338-41-46-682. Allora, il telefono della radio è 06 49 17 50, il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi è 338 41 46 682. È ripristinato il canale, ok, allora adesso rispondiamo alla ragazza che ci aveva detto che non si sentiva. Allora, vi ricordiamo inoltre che quella di oggi sarà l'ultima trasmissione, insieme alla replica della settimana prossima, ad avere l'orario 20:30-21:30, perché a partire dall'11 di gennaio, quindi dopo la pausa per le vacanze natalizie, torneremo alla nostra fascia oraria originaria, che è dalle 21 alle 22. Mi sta facendo dei segni, Lucia, dimmi. Danni, ci sono? Sì, sì, ci, sei, ci sono. Allora, il 4, credo che sia martedì 4. Sì. Martedì 4 sarà sempre alle 20:30, dalle 20:30 alle 21:30, perché ci sono Tania, ma noi la facciamo e Annalisa. Ah, sì, giusto, scusate. Allora, diciamo che l'ultima trasmissione sarà quella del 4 gennaio fino alle 21:30, non la settimana prossima, quindi si protrae fino al 4 gennaio. A partire invece dall'11 gennaio noi ritorniamo al nostro orario, che è dalle 21 alle 22. I've been afraid that I might drift away. I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I come from. That's the reason why I seem so far. Allora, noi abbiamo propagandato in lungo e in largo la data del 17 dicembre, cioè venerdì scorso, perché si è svolta in nostra compagnia e nei locali del Centro Femminista Separatista la seconda edizione della fantastica Lesbo Tombola. Abbiamo ovviamente a disposizione per chi le volesse, le tombole, le lesbo tombole, al prezzo di 10 euro, quindi insomma un prezzo stralciatissimo, con tutte le lesbiche, le icone, le nostre icone, e per giocare con Saffo, con noi e con tantissime altre donne. E la serata si è svolta per noi nel migliore dei modi, a partire dalla cena di autofinanziamento, e hanno partecipato quasi 100 donne. Il Centro Femminista Separatista ringrazia tutte le partecipanti e augura a loro, a tutte le ascoltatrici, a tutte le lesbiche d'Italia che ci ascoltano via internet, a tutte le donne un periodo di feste bellissimo ora, soprattutto ricordandovi e augurandovi un 2005 pieno di pace e di lesbicità. Vi aspettiamo ancora numerose alle nostre prossime iniziative, e quindi se vuoi essere informata su che cosa organizziamo, scrivici a contatti@clrbp.it e chiedi di entrare a far parte del nostro indirizzario. Sceglierai poi tu quando e dove venire. In ogni caso sappi che ti stiamo aspettando, e rimaniamo in tema ascoltando ancora una volta una cantante che è quella della nostra sigla. Caterina sta correndo a metterla, lei fa di tutto di più, e quindi Etta James nel brano Oh Happy Day. E beh, buone feste. Allora, speriamo che l'Happy Day ci sia per voi come per noi, e vogliamo darvi delle informazioni per questo periodo, se siete interessate a fare una vacanzina dalle splendide donne di Bari, le Desiderande, ed è un gruppo delle Desiderande che vi invitano al Capodanno in masseria. E sentite cosa ci dice Terry. Ciao, sono Terry, ti scrivo per invitarti al Capodanno che sto organizzando insieme ad altre amiche: Chiara, Daniela, Elena, Francesca, Ida, Pina, Vinci, presso la masseria Sant'Anna a Monopoli, in provincia di Bari. Se non ci sei mai stata, la masseria è una bella struttura di fine Ottocento situata nella Valle d'Itria, a pochi chilometri da Alberobello, che può ospitare fino a 20 donne in camere riscaldate da 4 a 6 posti letto. Il nostro programma comprende 31 dicembre 2004 grande cena di fine anno con le nostre chef Lorena e Sabrina da Forlì. Te le ricordi, Lucia? Ecco, non me le ricordo. Cucinano da Dio. Mamma da mia, Dio. Che meraviglia. E sono delle vere romagnole, fanno delle robe. Potrebbe essere molto simpatiche, tra l'altro. Fanno delle robe in cucina che sono da urlo. Allora, quindi la cena di fine d'anno per il 31 dicembre, poi, e quindi è la festa di Capodanno, 31 dicembre 2004, festa di Capodanno. Il 1 gennaio 2005 offriranno un buffet di inizio anno e cena di inizio anno, perché bisogna festeggiare anche l'inizio dell'anno. Il costo, dal 31 dicembre al 2 gennaio, comprensivo anche di 2 pernottamenti e 2 colazioni, è di 150 euro complessivi. Se vuoi prenotare, chiama al numero 333-1470-129. Ripeto il numero 333-1470-129. Oppure scrivi a questo indirizzo: Masseria Sant'Anna, tutto piccolo, tutto attaccato, senza apostrofo per Sant'Anna, quindi Masseria Sant'Anna, chiocciola, libero.it. Non perdere tempo, ti aspettiamo. La musica che abbiamo scelto di sottofondo è ideale per questa vacanza in masseria Sant'Anna, perché Only a Woman's Heart, solo il cuore delle donne, che è sempre grande. Certo. Allora, dico l'ultima e poi passiamo ad altro, perché le notizie dai giornali incombono. E voi sapete, ormai l'abbiamo detto varie volte, che la prima e la terza domenica di ogni mese le compagne e le donne di Arcilesbica invitano tutte le lelle, cioè tutte le lesbichine, a prendere anche il tè insieme. Anche le lesbicacce, le lesbicone. Le lesbichine, le lesbicacce, le lesbicone, tutte quante, insomma. Le lesbivecchie. Parla per te. Sì, vabbè. Ok, io sono giurassica, quindi non cioè sono sempre presente, mi piace, ma sono giurassica. Scusa, ma tu c'hai pochi anni più di me, figlio. Sei un bocciolo di rosa. Sono un bocciolo. Sei un bocciolo di rosa. Ok. Allora, la bocciola vi dice di andare, se volete, la prima e la terza domenica del mese presso il pub che si trova in via De Sabelli 2, quindi sempre in questo splendido quartiere, alle Lelle Tè dalle 16 in poi, e per trovarsi insieme, prendersi un tè, due pasticcini con tante lelle dalle 16 alle 18, poi diventa misto. Visto che ci siamo, leggiamo il messaggio che ci è arrivato, che dice: potete fare auguri a Sara Velardi per me, di buone feste. Io non ho più il suo cellulare, ma so che vi ascolta. Noi facciamo gli auguri a Sara, ma non sappiamo chi ce l'ha scritto, per cui vabbè. Sara, becca degli auguri di una illustre sconosciuta, per noi forse tu capirai chi è. E se non c'è più il tuo cellulare, ci sarà un motivo. Per caso non glielo vuoi dare più? Ciao. Ciao. I've traveled hard sometimes with conscience flying somewhere with the wind. E torniamo allora agli articoli di giornale. Dunque, devo riconoscerlo, io mi sono fatta prendere per il naso, ma non è stata una cosa che però si poteva evitare. Il fatto è che in edicola tempo fa ho trovato tra i numeri arretrati di Focus Scoprire e capire il mondo una copia del mese di luglio 2004 che aveva a caratteri grandi questo titolo: Un mondo senza maschi. E ancora una sorta di piccolo sottotitolo in neretto e sottolineato che diceva: Scoperta, per avere figli forse non serviranno più papà. La prova? Una topolina nata da due femmine. E fosse il miracolo. No, cioè, no, scusate, ma voi che avreste fatto? Ecco, sì, lo sento, mi sembra di sentirvi. E te pareva la solita lesbica ammazza maschi, una come te non poteva far altro che fiondarsi a comprarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so, lo so, lo so. E invece no, vi sbagliate. Sì. Perché vi assicuro che la mia curiosità per il giornale in questione era dettata esclusivamente da motivazioni scientifiche. Lucilla, smetti di sogghignare, non mettermi in imbarazzo, poi per piacere smettila di rotolarti per terra che ti sporchi tutto, insomma un po' di contegno. Vabbè, paghi la lavanderia. Ecco. No, comunque stavo dicendo una cosa serissima, perché ero interessata alle topoline che avevano figliato senza topo. Ma davvero? Perché non mi credete? Il fatto che io non abbia mai sentito il desiderio di diventare mamma non esclude il fatto che una cosa del genere mi possa interessare. Come dire, così, come semplice possibilità, perché no? Come? Cosa? Il fatto che si parlava di un mondo senza uomini? No, non è stato quello a colpire. Lucilla, ti ho detto di smettere di ridere. Si sente nel microfono, piantala. No, davvero, io sto parlando sul serio. Chiudo il microfono. Sì, oh, grazie. Perché a prescindere dalle mie reali motivazioni, bisogna riconoscere che questo titolo meritava tutta l'attenzione possibile, per cui l'ho comprato. Allora, adesso andiamo ad analizzarlo. Dunque, l'articolo nella sua composizione prevedeva una impaginazione a due fogli affiancati, nella quale al centro è collocata una donna che vede raffigurata alle sue spalle la rappresentazione grafica delle due tipologie di vita. A sinistra è raffigurata una comune strada affollata con coppie, rigorosamente uomo-donna, che, tenendosi sotto braccio, passeggiano. La strada è illuminata, piena di vetrine, piena di colori, dove i personaggi sorridono amabilmente. In basso, sempre a sinistra, c'è un riquadro con dentro scritto questo titolo: Con sesso. A destra, invece, si staglia una fotografia in bianco e nero dove le donne raffigurate indossano una sorta di divisa grigia, simil cinese epoca Mao, presente? Abbottonate fino al collo e soprattutto serissime. Sempre in questa pagina, in basso a destra, c'è un altro riquadro con dentro questo scritto: Senza sesso. Dopo qualche secondo di smarrimento, alzo lo sguardo e leggo il titolo di questo articolo che cita: L'abolizione del sesso. Rimango sempre più sorpresa. Come del sesso? Perché nomina il sesso? Sulla copertina del giornale si diceva un'altra cosa, si diceva un mondo senza uomini. Come mai si è trasformato in un mondo senza sesso? La cosa comincia a puzzarmi. E anche a me. Decido di andare avanti e leggo i due riquadri. Non voglio privarvi di queste chicche, così ve le riporto per intero. Allora, con sesso. un mondo normale. Spesso non ce ne accorgiamo, ma il sesso è il motore della nostra vita. È presente quasi in ogni comportamento. Ci vestiamo, andiamo in palestra, facciamo acquisti, lavoriamo, spesso con il solo obiettivo di conquistare le attenzioni del nostro partner. Per questo la pubblicità, i negozi, tutti gli oggetti che in qualche modo possono essere utili alla seduzione, vestiti, gioielli, automobili, sono plasmati dal sesso. Facciamo acquisti e lavoriamo con il solo obiettivo di conquistare le attenzioni del partner. Ma dove vive questo? E dove è andata a finire poi l'indignazione che sorge spontanea per le pubblicità che mercificano il corpo delle donne? Dove è andato a finire il gusto del tutto personale di vestirsi per piacersi e basta? O l'andare in palestra per dedicare del tempo a se stessi e stare bene fisicamente? E poi perché le automobili vengono inserite negli elementi utili alla seduzione? Forse perché allora si ritiene veramente che conta più ciò che si ha di quello che si è, maschio o femmina che sia? Non c'è che dire. In queste poche righe sono state concentrate tutte le peggiori convinzioni sulle quali si basa il maschilismo più retrogrado. Io non sono un uomo, ma credo che se lo fossi mi incazzerei un po' con chi mi dipinge come una persona incapace di elaborare un pensiero senza farsi condizionare da un bisogno fisiologico che, per espletarlo, permette di rendere lecito tutto. Dallo sfruttamento del corpo delle donne alla conquista a tutti i costi, dalla costante richiesta di disponibilità di accesso sul corpo femminile allo stupro. E per finire, ricordate? Nel riquadro c'era scritto con sesso e subito dopo si definiva questa abitudine, questa pratica, questa realtà, insomma il fare sesso, come facente parte di un mondo normale. E fino a qui mi può stare bene. Ma perché viene classificato come un mondo normale soltanto quello che della pagina a sinistra dove si vedono rappresentate coppie eterosessuali? Passiamo alla pagina di destra, quella grigia, con solo donne in uniforme. Il riquadro aveva questo titolo, Senza sesso, e andiamo a leggere. Senza sesso, la piazza di una città qualunque avrebbe un aspetto molto diverso. Non esisterebbero più le coppiette, i negozi sarebbero disadorni e puramente funzionali. Le merci messe in vendita potrebbero essere solo quelle utili alla sopravvivenza. I vestiti delle donne sarebbero semplici, essenziali e senza troppa fantasia. Dalla pubblicità scomparirebbero tutti i richiami diretti o indiretti al comportamento sessuale. Ma questo è un miracolo, ma magari fosse. Ma magari fosse. Utopia! Utopia! Allora, la prima cosa che mi è saltata agli occhi come strana è quanto il titolo della didascalia non coincida con la rappresentazione figurativa della pagina. Allora, si vedono solo donne e il titolo cita senza sesso. Questa è una cosa non vera. Io faccio sesso e nella mia vita non c'è un uomo. Allora, a parte il fatto che si disconosce alle donne la capacità, il gusto, il piacere di essere avvincenti, attraenti, affascinanti e seduttive per altre donne, a parte questo piccolo aspetto che ripropone la classica omissione nei confronti di tutte le lesbiche in base alla quale o sei eterosessuale o non esisti. A parte questo, dicevo, mi piacerebbe sapere perché in questo articolo si fa così tanta confusione. Allora, se sulla copertina del giornale c'era scritto un mondo senza di uomini, perché poi è diventato un mondo senza sesso? Forse la capacità di fare sesso è considerata una prerogativa maschile? Errore. E poi perché nella pagina interna dove viene scritto il titolo senza sesso sono raffigurate soltanto donne? Se è senza sesso, potrebbero esserci solo uomini, ma anche uomini e donne asessuati, o no? Perché la definizione senza sesso elimina automaticamente gli uomini? Ma perché gli uomini sono solo sesso? Come dicevo prima, io non sono un uomo, ma se lo fossi mi incazzerei. E E poi, insomma, sarebbe da leggere tutto questo articolo delirante, però lascio a voi la possibilità di scoprire le affermazioni abbastanza discutibili che ci sono all'interno. Però ve ne voglio leggere soltanto un'altra. Ad un certo punto si trova un capoverso in neretto. Ve lo leggo. Potere alle donne, due punti. Una società non molto differente da quella degli insetti sociali, in particolare api e formiche, in cui solo le leggine si riproducono ed eliminano i maschi dopo l'accoppiamento. In questa società mancherebbero anche tutti gli aspetti legati alla seduzione e al gioco sessuale. Le pulsioni dovrebbero incanalarsi in una direzione che potrebbe anche essere quella del potere dell'una sull'altra e comparirebbe una società iperconsumistica in cui la logica materiale sarebbe prevalente. Allora, potere di una sull'altra equivale ad un genere che predomina sull'altro. E poi dice una società iperconsumistica in cui la logica materiale sarebbe prevalente? Ma non lo so, forse mi sono persa qualche riunione importante, nessuno mi ha detto niente, forse sono particolarmente distratta, ma perché la società dove viviamo adesso non è uguale? Domando. Insomma, per concludere, a volte io, che sono lesbica, mi metto davvero a giocare sognando un mondo senza maschi ed esalto magari Valérie Solanas, che ha scritto il libro Scum, manifesto per l'eliminazione dei maschi. O rileggo il libro di fantascienza La difesa di Shora, che descrive un pianeta di donne, Shora appunto, perfettamente organizzate, che si riproducono per partenogenesi in un mondo senza violenza né guerre. Ma forse voglio che rimanga un sogno, perché so che gli uomini saranno sempre presenti sulla faccia della Terra, a meno che non decidano l'eliminazione totale del genere umano, come sembra siano intenzionati a fare, grazie agli esperimenti nucleari, alle guerre preventive, all'assoluta mancanza di rispetto della natura e del suo ecosistema. Io ho solo deciso di non sceglierli come referenti, pensando un mondo altro, nel quale sia possibile scegliere la vita che più è confacente ad ognuna e ognuno di noi. Cosa penso dell'eventualità di un mondo senza uomini? Dico che se tutte le donne lo volessero davvero, sarei contenta di volerlo e di vederlo realizzato. Ma siccome so che così non è, perché esiste il lesbismo, ma anche l'eterosessualità, così come non amo essere costretta a dover vivere una sessualità che non mi appartiene quando mi si impone la scelta eterosessuale, allora non sarò certo io a costringere una donna eterosessuale a vivere, suo malgrado, una scelta lesbica. Insomma, Lucilla, ti ricordi quando con il nostro gruppo un po' di anni fa abbiamo esaminato tutta una serie di filmati che parlavano di lesbismo? Ti ricordi, sì. Ti ricordi cosa dicevamo nelle nostre conclusioni quando il film era talmente tanto strano e lontano dalla realtà? Te lo ricordi che dicevamo? Che probabilmente si sente che il regista è un uomo. Brava Lucilla, sai che anche questo articolo di Focus è stato scritto da un uomo? Ma dai, giuro. Pensavo che fosse anche lui della parte degli insetti, lo scarafaggio. Va bene, adesso scusatemi, però mi devo riprendere un attimo e voglio fare una dedica alla donna che amo. Allora, non ricordo il nome della cantante, nemmeno come si intitola il brano. So che è una canzone spagnola, ma le prime parole sono "Te estoy pensando". En mi larga noche en soledad, si el Allora, ci è arrivato un messaggio lunghissimo che vi leggiamo, anche perché è su precisa richiesta. Quindi, al di là di auguri che fa a noi, c'è una nostra amica che ha bisogno anche di noi, perché è stato il compleanno della sua stellina e lei le vuol dedicare una poesia, una cosa che ha scritto. Così dice: vorrei essere una goccia di pioggia per scivolare sul tuo corpo, riempiendolo di baci, e un angelo pazzo che ti rapisce per portarti a scoprire tanti mondi. Tanti auguri e un mondo di fiori, scusatemi, per te. Nel microfono. Per te che hai portato la luce nella mia vita, la spagnola per la stellina. Allora, ci siamo rese un attimo radio di servizio. Auguri sia alla spagnola che alla stellina per un 2005. Vediamo anche una canzoncina caruccia, no? Per un 2005 di pace, spero che piaccia anche a voi questo augurio. E dedichiamo una canzone ad ambedue. Ad ambedue e a tutte le persone innamorate, va bene, le donne innamorate. Allora, sì, è una canzone molto bella cantata da Marcella Bella. Oh, oh, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Ce l'ho messo tutta, ho provato pure con quell'altra piastra, spero vada. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare. allora è con emozione che vi salutiamo a tutte. Certo. E ringraziamo in particolar modo Annalisa per averci trovato la musica di Quark che ha fatto da sottofondo all'articolo dell'antropologa Angioletta Mancinin. E ringraziamo Angela che ha scritto per noi, divertendosi sì, con Angela, noi. Angela, l'antropologa. L'antropologa, appunto. E ringraziamo appunto Angela, l'antropologa, che ha scritto e si è divertita con noi cercando di fare un po' di ironia su quello che accade nel mondo. Grazie a tutte e due e grazie a tutte le altre, perché se ci siete noi siamo contente. Esatto. E se ci fate un... come si dice? Se ci siete bussate, ecco. Fate un trillino. Trillate, scrivete e tutto quello che altro volete. Ok, allora il CLR vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Finiamo di far andare questa canzone Emozioni, poi partirà la sigla. Un abbraccio e a presto. Ciao. Se vuoi emozioni, tu chiamale se vuoi emozioni. Uscire nella brughiera di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso, parlare di... Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it.